È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, curu curu curu curu curu qua qua. Chi chi chi, co co co, curu curu curu curu qua qua. Ma non canti questa sera, come mai non canti? È caduto il telefono, come al solito è caduto il telefono di David Parenzo da Atene. Da Atene adesso lo richiamiamo naturalmente. Tutte le papere piangono. Parenzo? Avvocato Taormina? Eccomi. Buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? Benissimo. Meno male, sono contento. Adesso la faccio parlare con Parenzo, quando ci rimettiamo in collegamento. Sa che è Atene, no? Sì, questa lo so. Inutile trasferta ateniese. Inutile trasferta ateniese. Vabbè, comunque. Insomma. Comunque lavora, quando si lavora va sempre bene. È importante vedere che succede per capire qual è la nostra situazione, se per caso non debba succedere anche a noi. Ah, lei dice fare i paragoni con la Grecia. Speriamo di no, come, speriamo di no. Speriamo di no, ma col tempo, con i tempi che corrono si può prevedere qualsiasi cosa. Parenzo, ci sei? Paracalò! Eccoci qui, sei in collegamento anche con l'avvocato Carlo Taormina. Ah, ho bisogno proprio di un avvocato, perché ora sta entrando nella mia stanza una cameriera. E allora? Ah. Stai attento. Non vorrei fare la fine del signor Strauss-Kahn. Ecco, aspetta. Sì. Allora, ti faccio sentire quello che ha detto Bossi oggi, con la cosa dell'ampolla, del Po, sai, no? Quella... Tu conosci bene, Parenzo, quelle cose lì, no? Cosa conosco? Tutto quella roba là dell'ampolla, il Po. Ah, il dio Po! Sì. Beh, conosco benissimo, ho frequentato per anni, da giornalista, quelle piazze, diciamo. Allora, intanto ha detto che il governo mi sembra troppo lontano il 2013. Cioè, a Bossi sembra troppo lontano il 2013. E dunque questa è una notizia importante. Poi ha parlato dell'Italia che va giù, ma che il nord non precipita, ed è tornata ancora una volta a pronunciare la parola della Padania, l'indipendenza, la separazione, eccetera, eccetera. Milioni di uomini aspettano solo che succeda qualcosa, un lampo per mettersi in cammino, per muoversi. D'altra parte l'Italia, che l'Italia va da picco, questo l'ha capito tutti. Quindi è chiaro che bisogna preparare qualcosa di alternativo, la Padania. I milioni sono pronti, l'Italia va a picco, bisogna preparare qualcosa di alternativo, cioè la Padania. Io metto sotto la canzone di Pippo Franco, perché quando sento parlare di Padania metto immediatamente Pippo Franco. Allora, Bossi contro Brunetta, ancora una volta contro Brunetta, caro Parenzo. Tutta la Grecia non sai queste piccole cose, ti stai occupando di grandi problemi, la Grecia, l'economia greca, finiremo così. Cioè, ma stai parlando in questi giorni, ti stai occupando di problemi che sono troppo al di sopra delle zanzare. Ma oggi ho incontrato uno dei più grandi intellettuali europei. Appunto, che appunto. È il professor, il grande scrittore Vasili Vasiliskos, l'autore del libro Zeta, l'orgia del potere. Appunto, ma ti rendi conto? Appunto, dico. Vuoi che lo colleghiamo alla zanzara per un'ora? Parla solo greco, bellissimo. Bossi. Vasiliskos, meraviglioso. Bossi e Brunetta, senti questo. C'era il ministro di Venezia, Renato, il nano di Verdetto, il nano di Verdetto, non bisogna dire che si offende. Renato Brunetta che diceva, ma telefonate adesso a Banca Italia, non vuole che si tagli la pensione, ma come quelli sono sempre stati contro di noi. E poi, mica hanno chiamato a te perché sei il più in gamma, perché sei quello che capisce un cazzo, che si fa convincere. Non capisce un cazzo, questo ha detto di Brunetta. Vabbè, ma ormai è libera tutti, cioè, si dice qualsiasi cosa. Per esempio, Salvini, Berlusconi ha esaurito la sua corsa. Sentiamo. Ma che fine fa sto governo? Perché mi sembra che Berlusconi è agli ultimi, eh? Matteo. Sì, anche secondo me è esaurito. È esaurito la possibilità, la voglia, la forza. Non so che cosa abbia esaurito, però non penso che Berlusconi possa più cambiare il paese. Noi come Lega stiamo cercando di limitare i danni, anche in questa manovra, appunto, non facendo toccare le pensioni di anzianità, però penso che la strada della Lega ritornerà a passare da nord. Ci abbiamo provato da soli, con la destra, con la sinistra, con la secessione, col federalismo, con la devolution. Qua o i soldi ce li ripigliamo per conto nostro, e quindi penso che nel futuro della Lega ci sarà una corsa cosa solitaria. Cosa deciderete? Pane al pane, trasmissione che tu conosci, caro Parenzo. Come no, del signor Poletti, come del no, signor ho sentito Poletti. La voce del signor Poletti. Salvini sulla Lega, la corsa solitaria, eccetera, eccetera. Vabbè, che c'è? Castelli e i 145.000 euro. Castelli, ieri sera, Piazza Pulita. Sono povero, sentite. C'è anche una vecchia generazione di politici che dopo 20 anni che fanno politica come me sono poveri, chiaro? Che ha rinunciato, io facevo l'ingegnere, guadagnavo abbastanza bene, te lo posso garantire. Ho rinunciato alla mia pensione di ingegnere perché ho preferito far politica, nessuno mi ha mandato. Oggi sono povero, pochissimi soldi. Povero, quanto ragazzi, guadagna? Ministro, quanto guadagna all'anno? All'anno di dichiarato... Scusate, questa è informazione sensibile. 145.000 euro. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai. Giusto! Povero in senso, nel senso marxista del termine, poi si corregge Castelli. Io sono ministro, il povero ministro... nel senso marxiano del termine. Ah. E cioè vivo solo del mio lavoro, non ho accumulato ricchezze, sì. Non ho ville miliardarie, non ho Ferrari... Non ho yacht, non ho la casa al mare, non ho la seconda casa, non ho la casa in montagna. In questo senso ho guadagnato quello che mi è stato dato. Però non ho lucrato una lira e come me ce ne sono tantissimi. Beh, prima di tornare dal professor Taormina, professore avvocato Carlo Taormina, caro Parenzo, andiamo a Castelli e le corna. Perché è professore e avvocato, scusa. Professore e avvocato, sì, certo. Castelli e le corna, senti, quanti di voi mettono le corna? Senti. Beh, adesso questo io senti, Castelli, lo dice Castelli. Ah. Alla fine è un essere umano. Io mi ricordo che c'era un signore che 2000 anni fa diceva chi è senza peccato scagli la prima pietra per quanto riguarda la vita privata. Io sono convinto che tutti voi, se vi mettessimo sotto intercettazione dalla mattina alla sera, quanti di voi fanno le corna al coniuge? Quanti ce n'è qua? Quanti ce n'è qua che fate le corna? E vi piacerebbe andare sul giornale? Ditemelo! Il punto però non è questo, a parte che Berlusconi, quando insomma, il periodo delle intercettazioni è single, tra l'altro, no? Mi sembra. Sì, era già. Vabbè, al di là di questo, insomma, il punto non è se uno ha piacere o meno a finire sui giornali per la questione delle corna. Professor Taormina, Berlusconi ha deciso di non andare, i suoi avvocati almeno, gli hanno detto di non andare a Napoli, ma qui ci può essere l'accompagnamento coatto, lei che è un tecnico. Non ci può essere perché dovrebbe decidere sempre il Parlamento, perché Berlusconi, oltre ad essere Presidente del Consiglio, purtroppo è anche deputato. Insomma, ormai è, diciamo così, la situazione si è incancrenita, per cui lo possiamo dire con molta chiarezza. Abbiamo passato 18 anni e la conclusione è questa, per cui insomma, ecco. Che conclusione è? Dico, come che conclusione? Che tipo di conclusione è? Cioè... Questo è uno sfacelo, è la fine di un... Siamo a livello di basso impero, forse anche peggio di quello che era accaduto dopo al termine del percorso della Prima Repubblica. Qui siamo veramente... Sì, no, credo che sia peggio, penso che sia peggio. Cioè rischiano di andare a prendere Berlusconi col forcone? No. No, io sono sempre, diciamo così, un garantista, nel senso che violenze nei confronti di nessuno, però insomma Certamente, immaginate se Napoli chiede l'accompagnamento di Berlusconi, sì. La maggioranza è quella lì, voglio sapere chi è, a meno che la Lega non si dissoci, ma mi pare impossibile perché c'è anche lei i suoi problemi con Milanese, eccetera, per cui credo che Berlusconi l'avrà vinta sotto questo profilo. Cioè, sull'accompagnamento coatto? Sì, ma poi insomma, è strano, insomma... Ma fosse lei l'avvocato di Berlusconi? No, è una posizione più felice di quella di Berlusconi, di essere una volta tanto vittima di un reato e si rifiuta, ma è veramente siamo al paradosso. Vabbè, lei sa, avvocato, che questa storia della vittima del reato in realtà la voglio... pensi lei, avvocato? Vada all'attacco lei, ci pensi lei a difenderlo? È gravissimo quello che la procura sta facendo, o no? Ma la procura sta facendo... Guardi, è un atto quindi, gravissimo o no? No, il discorso è questo. Ma lo vogliono incastrare, avvocato, lei lo sa bene. Tutto... No, ma non è che lo vogliono incastrare, si è incastrato da solo, il discorso è questo. Ma voglio dire, il problema della, diciamo così, degli eccessi giudiziari nei confronti di Berlusconi credo che sia accertato. Una cosa abbastanza accertata, non nelle proporzioni che dice Berlusconi, ma insomma è abbastanza accertato. Però questo non significa che si debba poi reagire come fa Berlusconi, che tra l'altro ha avuto 17 anni per mettere a posto i magistrati e non l'ha fatto, non l'ha voluto fare, e se non l'ha fatto vuol dire che gli è convenuto non farlo, perché non fa mai niente a caso. Però dico, in questa situazione io sono veramente meravigliato del tipo di difesa suicida che sta realizzando Berlusconi. Cioè gli avvocati dicono andiamo a Napoli ma solo con i legali. Ma con i legali secondo me è pure peggio, con i legali, perché con i legali che si ritrova credo che non abbia la possibilità di affrontare seriamente e serenamente la situazione che... Cioè è meglio che ci vada solo, perché dove vanno gli avvocati gli hanno combinato pasticci, almeno fino a un certo punto, per cui mi pare che questa, se vuole la dimostrazione della veridicità di quello che dico, scusi, se lei fosse vittima di un'estorsione, preferirebbe non essere vittima di estorsione? Io penso che se mi capitasse a me, vorrei essere vittima di estorsione piuttosto che imputato di qualche altro reato, perché la storia è questa: nel momento in cui Berlusconi dice che è un filantropo e che ha dato 850 milioni alla Vitola e compagni e che l'ha fatto spontaneamente, siccome questa è una cosa alla quale nessuno può credere, perché è una fantasia, allora vuol dire che lui in questo momento ha paura che questi personaggi parlino e dicano qualcosa di ulteriore rispetto a quello che sanno, e quindi gli garantisce loro l'impunità. Sta rischiando un secondo processo Mills, perché la storia di Mills, se fosse vera, io, perché non c'è sentenza passata in giudicato, è la storia di un'operazione effettuata molto anticipatamente rispetto a quello che avrebbe potuto dire come testimone Mills. La stessa cosa avvenendo. Lo stanno consigliando pessimamente su tutti i fronti. C'è un modus operandi che si ripete. Andiamo al traffico, torniamo subito. Eccoci di nuovo, la Zanzara, 18:50, con David Parenzo, sempre in collegamento da Atene. Che allora? Aspetta che vado ad aprire la cameriera, aspetta un attimo. No, davvero, aspetta. Vai avanti intanto. Come vado avanti? No, voglio sentire la scena però, Parenzo, parla col telefono, avvicina, perché hai lasciato il telefono lì fermo? David! Avvocato Taormina, ma alla fine di tutto... possibile che tutto finisca in questo, con queste storie di donne, eccetera, eccetera. È stato il vero grande errore di Berlusconi, questo qua. Beh, non so se questo sia l'unico errore di Berlusconi, certamente è stato l'errore che ha determinato la caduta di consenso nei suoi confronti, e che quindi si trasferisce anche su quella che è la sua rappresentatività e legittimazione politica, questo non c'è dubbio. Però vede, io credo che quello che dice Bossi non sia assolutamente fondato, a meno che non abbia deciso lui di staccare la spina. Cioè il 2013. Cosa che non credo, perché anche Bossi insomma è fortemente gratificato. Berlusconi è una persona, come sappiamo, è un filantropo ed è un generoso. Anche con lei lo è stato, no? Con me? No, no, con me guardi, no, assolutamente. Come no? È esattamente il contrario. Quando lei faceva tutte le leggi porcate, in qualche modo l'avrà ricompensata, o no? No, ma ricompensato con un calcio nel culo, sì, è vero. Questa è la verità. Ma per colpa di chi? Per colpa di chi? Insomma, di quelli ma che lo circondano? No, la colpa di chi? Ma insomma, sa, Berlusconi non fa mai niente coperto da varie situazioni. Cioè, voglio dire, però... non ci sono le condizioni, perché appunto se non è Bossi a tagliare la spina, qui c'è una situazione troppo compromessa. A sinistra non c'è nessuno che viene fuori, a destra stanno a litigare da tutte le parti, per cui alla fine questa situazione magmatica e confusa è la forza di Berlusconi. Dico che io ho fatto già una proposta. Scusi, ma sotto mia, ma qualcuno dice si dovrebbe intervenire subito su questa storia della pubblicazione delle intercettazioni, ma non c'è la possibilità. No, non me ne frega proprio niente. A me tutto quello che si pubblica mi fa sapere quello che succede, e non me ne importa assolutamente niente. Cioè, è sbagliato intervenire sulla pubblicazione? Beh, è sbagliato intervenire, per me si deve pubblicare tutto, ma poi anche perché ci sarà un momento, sarà dopo un anno o dopo sei mesi, ma ci sarà un momento in cui tutto verrebbe ugualmente pubblicato, quindi qua è soltanto una operazione concussiva con la quale si tenta di far uscire in questo momento determinate cose. Ma scusate, vi siete resi conto di quello che è successo a Bari ieri? Che è successo? Questi hanno depositato i brogliacci eppure manipolati delle intercettazioni manipolati? Telefoniche che sono state effettuate. Come manipolati i brogliacci? Sì, sono state oggetto di sintesi, sono state fatte delle sintesi delle intercettazioni, anzi dei brogliacci. Questa è una cosa di una gravità incredibile. Io non capisco come un procuratore della Repubblica possa fare una cosa di questo genere. Ma poi ci sono anche gli integrali di tutto. Ma dove stanno le integrali? Usciranno adesso. Ma quando si depositano gli atti, deve essere depositato tutto. Mica depositi quello che ti fa comodo a te. Questo adesso, i tempi del deposito delle cose, no. Dobbiamo dare la linea al giornale radio, credo. Prego. Dopo torniamo. Intanto la signora Maristel Polanco, te la ricordi, Parenzo? Sì. Come no? Indovina dove è andata a lavorare. Eh? Dove è andata a lavorare, lo sai? Alla RAI, no? No, alla RAI no. Oggi comincia un nuovo spettacolo la signorina. A Milan Channel. Esatto, ma guarda un po'. A dopo. È perfetta questa chiusura. Gliel'ho chiesto. A chi gliel'ha chiesto? A lei personalmente. Dico, scusi, com'è che lei domani comincia questa nuova avventura nel mondo dello spettacolo? Berlusconi non c'entra niente? Lei ha detto che lei è brava e che pian piano lavora. Dico, faccia quello che crede. Torni col suo fidanzato da Berlusconi, forse lo troverà meglio. Fidanzato di che ti ricordiamolo? Fidanzato, lei ha dichiarato di essere andata due settimane fa col fidanzato a cena da Berlusconi. Non le ho chiesto dove ha lasciato il fidanzato, perché non sono affari miei. Sì. Però insomma, sappiamo questo fidanzato che cosa faceva prima, insomma, no? Ecco. Lei dice però non sono raccomandata dal Premier. No, non è raccomandata, è imposta, è diverso, è vero. Ci sentiamo tra 10 minuti, 800 24 00 24 Milan Channel, ma non sono raccomandata dal Premier, è una cosa pazzesca, diciamo la verità. A dopo. Io non capisco se i telefoni con la Grecia funzionano o no, se questo collegamento con l'albergo Hilton, e sottolineo l'albergo Hilton, lo dico tre volte, l'albergo Hilton ad Atene. Ma perché devi dire? Perché Parenzo all'Hilton, vabbè, lasciamo perdere, i giornalisti vanno sempre... Perché Parenzo doveva andare alla pensione Mariuccia, non ho capito. No, giusto, all'Hilton, però io lo sottolineo, l'albergo Hilton, che tutti lo sappiano. Ma ripetelo ancora. Ah, è successa una cosa pazzesca, posso Che è dirti? Successa? Come no? Sì, dimmi. Allora, no, torno in albergo, vengo ricevuto dalle maestranze dell'hotel alla reception, e mi dicono: Mr. Parenzo, dico yes, c'è un messaggio per lei. Sì. apro il messaggio, è un ascoltatore della Zanzara, sì, che ascolta in broadcast la Zanzara da Atene, che ti vuole menare, no? A trovarmi. Sì, attento a queste, ecco, cose, però, fai attenzione. Ti presento una persona, peccato che non sei qua. Cioè, mi è venuto a trovare una persona. Uomo o donna? No, un uomo. Adesso non è che solamente le donne mi vengono a trovare. Un uomo, come mai? No, ma non è che passava di qua. L'ho invitato, vieni, eccetera, soprattutto perché volevo fartelo rincontrare. Poi tu sei andato da Atene e niente. Pierluigi Pardo! Buonasera, Parenzo, come va? Hai capito? Pardo. Mentre parcheggiavo eri alle prese con una cameriera, spero che, insomma, l'episodio... No, tu lo possa chiarire, ecco, tutto a posto, che hai staccato il telefono. Pierluigi Pardo, mitico telecronista, giornalista di Mediaset Premium, è stato a Sky da Pian. A Bari, sui Matarrese, che non mi ricordo bene. Devi stare molto calmo, devi stare. No, dobbiamo dire che eravamo su un pullman in evidente stato di ebbrezza durante una manifestazione. E, insomma, c'è chi si lasciava andare, ma non eravamo noi. Noi eravamo semplicemente testimoni. Esatto, del, testimoni, esatto, testimoni di politici che facevano cori, cose, cori da stadio. Cori irriguardose. Da stadio. Chissà perché Sky... mettono in diretta l'avvocato Pecorella, ex legale di Berlusconi, in diretta davanti al Tribunale di Milano. Sentiamo che dice Pecorella. Una grande impresa in crisi, si nomina un commissario che va al di sopra e al di là degli interessi delle parti per far uscire la grande impresa della crisi. L'Italia, secondo me, sì, ma non è solo lei, l'Italia in questo momento ha un problema di questo genere. Ci vuole una uscita dalla conflittualità per arrivare alla soluzione dei problemi più urgenti. Poi si parlerà di elezioni. Allora, Gaetano Pecorella, io la saluto. Vabbè, la l'avvocato Pecorella... Ma l'ha detto da noi ieri. Eh sì, ma no, certo, lo chiamano, lo chiamano, diciamo la verità. Lo chiamano perché è stato ieri alla Zanzara, ma va benissimo. Ma io denunzio Sky subito. Ma non c'è bisogno di denunziare Sky, è normale. Ha dato una notizia ieri alla Zanzara, viene intervistato da Sky ribadendo qual è la sua posizione. Che dici, Marco? Quello dei braccialetti... Ma copiano! Io ieri ero tornato da Manchester, ho sentito una roba sui braccialetti, che è difficile trovare una donna che non esca con te se non per i braccialetti. Non so chi fosse. No, l'avvocato Dormino è una cosa... No, l'avvocato Dormino, l'avvocato Pecorella è una cosa eccezionale. E voglio chiedere all'avvocato Carlo Taormina, che è ancora in collegamento con noi. Avvocato Taormina? Eccoci qua. Ma come mai l'avvocato Pecorella adesso dice basta Berlusconi, bisogna fare un governo di emergenza? Perché è un ex legale di Berlusconi? Perché è rimasto un po' ai margini? Ma Pecorella ha sempre avuto una posizione... Nonostante fosse l'avvocato di Berlusconi, però ha sempre tenuto una posizione abbastanza equilibrata sul piano dei problemi strettamente politici. Certo, insomma, fa un po' di rumore perché negli ultimi tempi sembrava che anche lui avesse preso la strada degli yes men che circondano Berlusconi, per cui insomma, ecco, questo è un sussulto di orgoglio che gli fa onore. Un sussulto di orgoglio. Ma chi è il capo degli yes men, avvocato Taormina? Il capo degli, proprio quello, l'emblema, la fotografia, ecco, questo è lo yes men di Berlusconi. Chi è? Sono, ma me ne dica uno che proprio le sta un indizio. Un nome, non un indizio. Vabbè, insomma, credo che l'emblema sia stato Bondi per moltissimo tempo, insomma. Adesso è caduto in disgrazia, in disgrazia, sempre per modo di dire, ma insomma, sa, quando si creano queste distanze, perché lei vede che non è soltanto Bondi che non parla, ma è anche Berlusconi che non parla, quando si verificano questi due silenzi, vuol dire che lo yes man è caduto in disgrazia. Quindi, adesso chi è il principale, come dire, l'anima nera, chi è che consiglia male Berlusconi? Che consigliano male sono moltissimi. Mi auguro soltanto che Alfano si riesca ad uscire fuori dalla mischia. Ecco, su Alfano, mi dica qualcosa su Alfano. Ma l'ha nominato Berlusconi l'altro giorno. Chi è che ha detto? Un esponente del PDL, Albertini, ha detto: beh, alla fine è stato nominato dall'imperatore. Insomma, diciamo. Ma questo è pacifico. Però qualche volta gli imperatori possono fare anche delle cose illuminate. Potrebbe darsi, se Alfano ha la capacità di uccidere Berlusconi, potrebbe darsi che veramente possa essere... Uccidere Berlusconi, questo mi sembra francamente un po' esagerato. Insomma. No, uccidere... Ma è vero che lei... Metafora. Sì, metafora, insomma, politicamente, sì. No? Sì, no, cioè, certamente, ma è l'unica strada perché prima il partito e poi il centrodestra possano in qualche modo ridecollare. Cioè, lei dice l'unica strada è uccidere Berlusconi, politicamente naturalmente, no? Ma certo, uccidere Berlusconi, ma il problema è che tutte queste cose non succederanno per quello che dicevo prima. Perché cosa? Perché c'è una situazione di tale conflittualità a destra, al centro e a sinistra che lui dalle macerie esce sempre fuori. Questo è il problema. Siamo condannati ad avere Berlusconi perché si è creato un sistema fatto proprio perché quello che sta accadendo in questi ultimi anni si verificasse. Questo è un imperativo. Senta, ma lei dove l'ha incontrata la signora Polancola, che dice ha chiesto? L'ho incontrata ieri sera in una trasmissione. Ah, a Tele Lombardia, che cos'era? Sì, a Tele Lombardia. Sì. Ma com'era la signorina Polanco? Tu la conosci, parlo la signora no, Polanco? No, non ho avuto modo. È diventata la tua collega quasi. Sì, sì, beh, questo diciamo è notevole, ma cesso la professione. È notevole, dice. Un attimo solo, poi termina. È diventata quasi tua collega, parlo. Senza il quasi. Presentatrice a Milan Channel. Quasi, insomma. Avvocato Dormina, lei la conosce, il signor Pardo? No, il piacere di finga Dormina, finga, rifacciamo la domanda. La conosce il dottor Pardo? Non lo conosco personalmente. Ecco, va bene. Okay. È l'onestà dell'avvocato, capisci? Cioè, non si vuole... Ma Luis Enrique invece come è messo? Posso alleggerire, Cruciani? È messo male. Cioè sta meglio o sta peggio? Perché prima la sentivo... Ecco. Sta messo meglio o peggio? Dica da tifoso della Roma. Come? Da tifoso della Roma, credo che lei sia tifoso della Roma. No, sono tifosissimo della Roma. Sta messo meglio Luis Enrique o Berlusconi? Beh, vabbè, ci vuole poco a star meglio di Berlusconi, ma non è questo il problema. Ma il problema è che anche se Berlusconi sta peggio di tutti, però alla fine riesce ad emergere ugualmente perché di fronte al disastro politico italiano chi sta in sella ha un punto di vantaggio. E questo lui se lo gioca bene. Sentiamo i titoli del TG3 insieme, avvocato Dormina. Sì. Vediamo come ci presenta la giornata. Sentiamo come ci presenta la giornata il TG3. Va ora in onda il TG3 di Bersani. Bossi governo fino al 2013, troppo lontano, per ora si va avanti, poi vediamo. Italia picco e rilancio la secessione della Padania. Berlusconi testimonierà dai PM di Napoli solo se accompagnato dai suoi legali. Il premier alla vitola contro di me, giudici e fascisti. Chi mi porti stasera? Le telefonate tra Tarantini e Berlusconi agli atti dell'inchiesta sulle escort. Si dimette, metrangolo di Finmeccanica. Festa dell'Italia dei Valori sul palco faccia a faccia tra Bersani, Di Pietro e Vendola. Il segretario PD, mai più l'errore dell'Unione. In Libia i ribelli sferrano l'attacco finale a Sirte e Bani Walid, le due importanti roccaforti di Gheddafi. Napolitano contro la crisi, rafforzare l'unità nazionale, manovra benzina più cara per l'effetto IVA statale il 28 ottobre, sciopero Will. Trasporti locali in condizioni difficili sotto la scure dei tagli e pendolari esasperati, inaccettabili altri aumenti. Amici, forse voi non crederete a questa storia che vi narrerò, eppure il manto bianco che vedete lo persi un giorno, come vi dirò. Era una pecorella nera, nera, nera, nera, tutti da me fuggivano tremanti di paura. Diciamo la verità, quanti sono i casi in cui una donna per una sera, per una settimana o quello che è, va con un uomo senza aspettarsi in cambio un qualche riconoscimento, che può essere una bella cena, un braccialetto, cioè è molto difficile pensare a una serata fine a se stessa, cioè dove non ci sia un rapporto sentimentale, dove non ci sia un rapporto continuativo, che non abbia come contropartita un qualche vantaggio per questa donna, cioè può succedere. La teoria dell'avvocato Taormina sui rapporti uomo-donna. Pecorella. Perché dico pecorella, hai ragione. La figura del braccialetto, la riabilitazione del braccialetto, perché insomma... Avvocato Taormina, ma questa è una teoria assurda secondo me, o no? Ma come? Certo, è una teoria da Yes Man questa, no? Da Yes Woman più che altro. Yes Woman, ma insomma, da parte di Pecorella certamente, insomma, come si fa? Io non voglio fare, per carità, né il moralista né altro. Ma ha sentito i titoli del TG3, chi mi porta? Sì, ma quando Berlusconi dice che questo è un paese di merda, sentendo i titoli del TG3 mi pare che ci sta tutta la definizione, ecco. Però se lo dovrebbe dire da solo, dice. Intanto l'ha detto, ma la situazione è questa, non c'è ombra di dubbio. Allora, a noi non ce ne frega assolutamente niente di quello che fa Berlusconi, perché sono fatti suoi, privati, eccetera, ma il fatto che non sono privati, sono esibiti, sono fonte di ricatti, sono fonte di favori. Ma è ricattato, secondo lei è ricattato Berlusconi? Beh, scusi, il processo di Napoli dice che è un ricattato. Vabbè, no? Questa è l'accusa però. Vabbè, l'accusa, ma scusi, quando adesso si è dimesso questo signore di Finmeccanica, credo che già sia un esempio, ma uno dei mille esempi. Abbiamo avuto una serie di collegamenti. Avvocato, era garantista una volta. Era garantista una volta. No, ma io sono garantista, non, per carità, però distingo il politico dal giudiziario. Scusi, scusi un attimo, Tormina. Diciamola tutta perché siamo in conclusione di questa parte. Allora, sì. Se Berlusconi domani se ne andasse, l'Italia sarebbe un paese migliore? Cioè, cambierebbe qualcosa drasticamente oppure non cambierebbe nulla? Me lo dica lei, che è stato fedele a Berlusconi per tanti anni. Io penso proprio questo, che la situazione si è talmente degenerato verso sponde ormai inammissibili, che anche se se ne va Berlusconi, che succede? L'economia è quella che è, perché non dipende né dai governi né da altro, ma dall'ira di Dio che sta succedendo in tutto il mondo. Per quanto riguarda il resto, che possiamo guadagnare un personaggio che scopa di meno di Berlusconi laddove questo facesse? Ma cioè, lo dico, non lo dico, alla fine è quella, cioè alla fine ci troveremo di fronte semplicemente a uno che scopa di meno di Berlusconi, questa esatto. È la verità. O più di Berlusconi. Da quello che decidiamo, uguale. Perché io non sono sicuro che lui lo faccia, capito? Come perché non è sicuro? Nonostante 40 escort abbiano detto quello che hanno detto. Io ho i miei fortissimi dubbi. Scusi, mi spieghi quali sono i suoi dubbi? Cioè, secondo lei questa potenza sessuale di Berlusconi alla fine non è... Secondo me non c'è. Cioè non c'è? Secondo me non c'è. O se c'è non è una potenza naturale. Quella potenza naturale o meno, chi se ne frega, quello lo sappiamo, che insomma qualcuno ci si fa anche aiutare. Anche il vulcano che si è costruito non è naturale, erutta. Ci vorrebbe che cosa, Pardo? La prova televisiva, so che vorresti dire questo. No, non ci vuole, non lo so, mi sembra un dibattito, personalmente non mi appassiona. L'abbiamo avuta ieri sera la prova televisiva, quando è venuta questa ragazza di cui parlavamo prima. Quella signora Polanco, lei dice la prova, infatti. Quella è la prova, erano in televisione, quindi prova televisiva. Cioè... è la prova televisiva, anche perché insomma non ha fatto mistero, a parte che i giornali avevano pubblicato di tutto e di più sui suoi rapporti anche intimi con Berlusconi, ma comunque non ha fatto mistero di essere ancora oggi nelle grazie del principe e di avere anche i vantaggi da questo rapporto. Vabbè. Oggi ha cominciato una nuova carriera a Milan Cennel. Grazie avvocato Tormina, a presto. Grazie a voi, buonasera. Borsa. Parenzo, che succede, Parenzo? Com'è? Che succede? Sei sempre lì, sì. Guarda, sto guardando la televisione greca piuttosto che guardare l'attesa del TG1. È arrivato l'ascoltatore? È arrivato, ancora no. È arrivato l'ascoltatore? No, quello arriva per cena più tardi. Ecco. L'ho convocato qui alle 10. Ma c'è il fuso, time. Ok. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. E dai, ma 24.000 euro insieme, ma che ci faccio? È da Barboni, no? Ma dai, quella cifra lì mi fa cagare. È una cifra vergognosa, ma questa è la Jumpy Generation. Sono 20.000 euro il mese, cioè non 24.000 euro ogni 6 mesi. Ma quando un uomo viene a cena con me, lo sapete cosa mi mette sotto il piatto? Braccialetto di diamanti, cioè minimo. Fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che... Hai riconosciuto la voce anche tu? Non l'ho riconosciuto, però il braccialetto torna, è un tema... Esatto, Terry De Nicolò. Terry De Nicolò, ecco. Tu lo sai chi è, no, Parenzo? Parenzo? Io? Sì. La signora De Nicolò? Sì. Ma chi non la conosce, scusa? Chi non la conosce, adesso non esageriamo. Non... Io l'ho frequentata giornalisticamente a lungo. Senza braccialetto però, giusto? Senza nessun braccialetto. Io non ho mai invitato una donna a cena lasciandole un robo di diamanti, mai. Sei sicuro, Non ne capisco. No, semmai le posso offrire la cena, come dice Pecorella, con la speranza... se mette bene, insomma, questo è il concetto. Un hamburger da McDonald's, non lo so, da qualche parte. Va bene, questa è la Zanzara 800 24 00 24, accanto a me Pierluigi Pardo. Questo è buono, eh? qui andiamo su con gli ascolti. Dica, Luigi Pardo, dica, vai con gli ascoltatori. Che tra l'altro, oltre a essere un giornalista sportivo tra i più conosciuti, è anche grande imitatore. Ma grande... non come Parenzo, non come non Parenzo. Come Parenzo. Però io penso che l'aria di Atene possa aiutare, perché, capito, impasta la voce, la linea telefonica. Quindi, secondo me, per esempio, quello che dicevamo prima lo può far meglio, secondo me. Ah, dici sì, Bossi, eh. Sì, Bossi, sì, sì. Bossi è esplicito in quel caso. Sì. Cruciani va a far culo, però non sei Cruciani. Ma io e Cruciani, onorevole Bossi, che siamo romani, si sentirà dall'accento, ma viviamo qui in Padania da qualche anno e siamo io felicissimo, tu sei felice? Siamo molto felice, grande, sì, grande, molto grande, felice. Tranquillità, integrazione. Avremo il passaporto, cioè come funziona, Bossi? Una volta come prima cosa vi dico Pardo. Ecco. Questo come primo saluto del signor Pardo, preparando coglione Tazzerone. Adesso chiedo Calderoli, vai a prendere la legnata di un coglione di Pardo che lavora alla televisione, che è quella del Berlusconi. Ho detto a Berlusconi che riassumere un ragazzo giovane, bravo, preparato. E chi? Si chiama Renzo. Scusi, magari è bravo, magari è un grande telecronista. È bravissimo. Detto il trotta, bravissimo. No, ho capito, ma adesso... Ma sembra vedere le partite da anni, dalla Padana. Ho capito, però... Anche l'allenamento, hai zitto, che hai parlato con la Marcegaglia, voglio salutare la signora Emma. Con la Marcegaglia abbiamo fatto un accordo con la BCE. Per Trichet, mandar via Trichet, Trichet via. Chi mettiamo al posto di Trichet, scusi? Il fratello di Renzo, è bravo. È giovane, fratello di Renzo, Idrio Libertà si chiama. Ma poi scusi, non ha le competenze, scusi. Poi c'è mia moglie che è brava, Emanuela Marrone, la mettiamo. Ma ha letto quello che ha scritto Panorama, no? Scusi. La Panorama, il giornale in mano a Berlusconi. Appunto. Ci fa la guerra quello lì. Ci fa la guerra, anche il direttore Mulè è siciliano. Mulè è coglione, tipicamente borbonico. Capito. È arabo Mulè, come Alfaro e Mulè sono due arabi che sono venuti a pregare via le Iene. Mulè l'ho visto che andava sempre via le Iene col tappetino verde, si ginocchiava lì. Mulè vai, tornatene a Salonicco, vai via. Ho capito, ma non è che hanno scritto niente, hanno fatto un articolo giornalistico in cui dicono che sua moglie... Giornale arabo. No, non è un giornale arabo, ha sede qui a nord di Milano, a Segrate. Non ha più una sede a Segrate, la sede della Padania, ho parlato già con Boss, con Berlusconi. La Padania abbiamo trasportato tutto lì a Segrate. Ciao, Mulè. Vai via, ciao Mulè. Scusi, ma non ha detto niente in realtà, cioè ha detto che ha fatto un articolo a firma di Cristina Giudici in cui si dice che sua moglie è una persona molto potente, che conta una roba che in un paese civile avrebbe preso a legnate anche a Mulè. Vabbè, abbiamo piazzato i due figli anche stasera mandare una cassetta, fare una prova, insomma. La pernacchia di Bossi con cui si conclude il collegamento, solito collegamento dalla Villa Reale di Monza. Sentiamo Carlo da Mantova. Buonasera, signor Carlo, 800 24 00 24. Dica. Io volevo porre l'attenzione sulla questione della credibilità internazionale del nostro paese e su un aspetto in particolare, cioè il rispetto dei diritti umani verso i cittadini, alcuni cittadini, una parte dei cittadini italiani, e cioè i Sinti Rom. Come, scusi, non ho capito, i Sinti Rom. È un po' sottovalutato. No, ma scusi, ma adesso non mi pare un problema centrale in questi giorni, adesso, per carità, con tutto il rispetto dei signori Rom, Rom e dell'etnia Rom e delle famiglie, eccetera, eccetera, non mi pare un problema centrale in questo momento di cui si discute in Italia. Io, se vuole, leggo alcuni siti internet come titolano, cioè il primo titolo non è dramma Rom, i diritti dei Rom in Europa, abbia pazienza, adesso va benissimo Carlo, però... Forse questo è il problema, che non ci rendiamo conto. Cioè che ci si occupa di cose inutili, invece dovremmo... No, non ci si occupa di cose inutili, però non ci si occupa di un aspetto importante che darebbe credibilità internazionale al nostro paese. Vabbè, ma lei chi la... dica. Nel senso che se tutte le organizzazioni internazionali, come l'OSCE, l'ONU, che dovrebbero la Commissione fare? D'Europa, continuano a richiamare da diversi anni l'Italia, sì, dicendo non c'è rispetto dei diritti umani, dei diritti umani per questi cittadini italiani. Guardi, se c'è una cosa in cui l'Italia è specializzata nel dare diritti a un sacco di gente, cioè, proprio, siamo rom, specializzati però, in questo. Cioè, meno che rom, i, rom in altri, i rom in altri paesi, vedasi il caso della Francia con Sarkozy, quando è il caso li cacciano via. Per cui proprio se c'è in Italia una cosa assurda Germania... è la questione dei diritti umani in Italia. Abbia pazienza, Carlo. Poi dopodiché l'OSCE può dire quello che vuole, l'ONU può dire quello che vuole. In Italia c'è il massimo rispetto ai diritti umani rispetto a miliardi di paesi, a decine e decine di paesi nel mondo. Beh, insomma, se tutti lo dicono che non è così... Ma tutti chi? Tutti chi? Bisogna vedere i rapporti, chi li fa, come vengono fatti, proprio... l'OSCE. Ma non mi interessa, io voglio vedere i rapporti, chi li fa e come vengono fatti. Spesso sono rapporti farlocchi. Beh, insomma, cioè, l'OSCE, l'ONU, il Parlamento Europeo, la Commissione Europea... Tutti, cioè, si pensi solo alla Francia. Non mi pare che la Commissione, non mi pare che la Commissione Europea dica che in Italia non c'è rispetto ai diritti umani per i rom. Comunque la ringrazio, caro, di aver posto questa questione. Okay. Antonio da Catanzaro, buonasera. Buonasera, Gruciani. Dica. Buonasera ai suoi ospiti. Io ero qui nel mio studio legale e sentivo Radio 24 e ho sentito il professore Taormina. Sì. Diciamo professore. Professore avvocato. Collega Taormina. Sì, sono un avvocato, un anche legale, lei. Legale, no, penalista, un avvocato penalista. Eh no, sì, avvocato. Allora, avvocato, ho sentito... Scusi un attimo, cioè, Antonio, scusi un attimo, che dici? Ma quale avvocato? Avvocato, vabbè. Che cosa? No, è Parenzo. Avvocato, no, Parenzo, io non mi meraviglio che lui sia giornalista, io sono avvocato comunque. Io allora, scateno la procura subito, la procura di Atene, subito. Allora, non faccia il chierino. Allora, Cruciani, il problema è il seguente. Scusi, sentito, avvocato Taormina, Antonio sta sentendo Antonio, avvocato Taormina? Eh? Oh, scusi un attimo, Antonio, sta sentendo, avvocato Taormina? Ma chi è? Non voglio sentire, è una cosa gravissima. Ho sentito l'insigne avvocato. Avvocato Taormina, sì, il quale ha detto sostanzialmente è la prima volta che Berlusconi è parte offesa e non si presenta. Insomma, sinceramente è una cosa che mi lasciano perplesso da parte di un illuminato penalista come Taormina, perché sappiamo tutti che facciamo un penale e abbiamo fatto processi per estorsione, che affinché Sinno colpisca le stortore occorre che sia cooperante soprattutto la parte offesa. Guardi Antonio, da questo punto di vista con me sfonda una porta aperta. Lei sta dicendo che si punta a incastrare Berlusconi. Io sono d'accordo con lei, cioè se io la penso così. Parenzo, tu la pensi così? Dimmi la verità. Ma che cosa state dicendo? Allora, la procura di Napoli con questa storia del Berlusconi ricattato, ma ho capito, ma che dite? Punta o no a incastrare Berlusconi? Adesso sento anche Pardo allora, su questo. Allora, la procura ha fatto un'ipotesi di reato. Mamma mia, come sei sbattuto in galera il signor Tarantini, chiede al signor Berlusconi di venire a testimoniare per concludere le indagini, cercare di ricostruire la vicenda e mi venite a dire e a raccontare la favola che vogliono incastrare il signor Berlusconi. Ma voglio dire, hanno avuto mille modi per incastrarlo. Secondo te non è un modo per incastrare Berlusconi? Ma perché deve essere? Ma se uno non ha nulla da ma scusami, adesso... Ma tu vivi nel mondo delle così, vivi nel mondo in un mondo di sogni. Ma vogliono incastrarlo perché ha dato dei soldi al signor Tarantini? Ma non è quello, dai, lo vogliono incastrare. Allora, o c'è il reato o non ma c'è secondo il reato. Te queste intercettazioni che vengono pubblicate, abbiamo anche gli audio, gli audio tra la Vitola e Berlusconi, eccetera, eccetera. Secondo te a che servono? All'indagine oppure a mettere alla berlina il Presidente del Consiglio? Ma dimmi la verità. Ma dimmi la verità. Ma non restare alle cose formali, c'è un'indagine in corso, l'obbligo dell'azione penale, queste stupidaggini che sai benissimo che non contano nulla. Non rimanere fermo lì. Solo sapere, a me non me ne frega nulla, voglio solo sapere una cosa. Il signor Tarantini ha ricattato o no il signor Berlusconi? Io questo voglio sapere. Ma sì, ma questo qua è ma certamente questo qua è, diciamo, come dire, il formal dell'inchiesta, questo è l'oggetto. L'oggetto dell'inchiesta. Tu ti fermi a questo, l'oggetto dell'inchiesta è questo, però non ti poni il problema come mai in queste inchieste c'è sempre Berlusconi? Come mai? Mai telefona troppo? Onorevole Crosetto, chi ha ragione? Il sottoscritto o Parenzo? Cioè, vogliono incastrare. Trucco, peraltro, dice la stessa cosa. L'avvocato Trucco chi? Mi ha scritto un messaggio dall'Italia: l'avvocato Trucco è con te avanti. Ma chi è l'avvocato Trucco? Ho capito, l'avvocato Trucco è uno, cioè, è un mio amico, il mio avvocato, eccetera. Ma che c'entra? Ha appena scritto questo messaggio, vuol dire che il popolo è con me. Ma vai, la cosa è da pazzi. Onorevole Crosetto, buonasera. Buonasera, sai che magari lo conosco, questo avvocato Trucco, di dov'è? Di Roma. Ah, io lo conosco, uno di Savigliano. Dove? Di Savigliano? Di Savigliano. È proprio della provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo. Provincia provinciale, grande. Non ho origini nobili come Parenzo. No, in realtà la famiglia Trucco credo che sia originaria di quelle parti lì, però lui abita a Roma. Non so se è un tema da zanzare. No, non è un tema, non è un tema da zanzare, oggettivamente. Non è un tema da Parenzo, e quindi... Onorevole Crosetto, mi... intervistare il sottosegretario Crosetto in questi giorni sull'avvocato Trucco, una cosa pazzesca. No. Diciamo io e te, basta peraltro. È una cosa, no? Questo è vero. Le posso presentare, onorevole Crosetto, il signor Pardo, Pierluigi Pardo, lo conosce? Sì. Lo conosce? C'è incertezza, c'è incertezza. Però magari mi ha visto. Perché poi è grande tifoso della Juve, onorevole. Esatto, grande tifoso della Juventus. Io ho passato l'estate in Piemonte a fare presentazioni della Juve nella provincia grande. Quindi, insomma, grande tifoso bianconero. Oggi addirittura c'è una rivelazione esplosiva di Luciano Moggi uscita sulle agenzie. Pare che abbia trovato una telefonata. La madre di tutte le telefonate. Che rivelerà il 27 che stravolgerà l'intero impianto di Calciopoli. Ma posso chiedere subito all'onorevole Crosetto se è moggiano, se è nostalgico oppure se ha voltato pagina? Ma sai, io sono uno che pensa che noi abbiamo 29 scudetti. Ecco, quindi è Moggiano. Vabbè. Altro che Moggiano, Moggiano di ferro si può dire, no? No, va al di là di Moggi, sai. 29. Come dice Andrea Agnelli, quelli vinti sul campo sono 29 poi. Però non tutti la pensano così. Devo dire che sono circondato da fratelli milanisti, amici interisti, per cui le discussioni, quando si è tranquilli, le discussioni sono... Ma anche gli juventini non tutti la pensano così. Legga Travaglio oggi sull'Espresso che dice che bisognerebbe mettere in discussione anche gli scudetti vinti dalla Juventus, quelli sulla questione del doping, sospetto, la prescrizione, eccetera, eccetera. Mettiamo in discussione anche la Costituzione da Juventus, a questo punto. Cioè, Travaglio esagera. Da Juventino lo dice, però forse... Vabbè, hai detto... Cioè, ma che Juventino è Travaglio? Che un uomo del PDL possa essere in contrasto con Travaglio non fa neanche tanta notizia. No, che lo sia sulla Juve, insomma. No, sulla Juve. Ma sulla Juve già mi va, anche perché tutto sommato io non ho un cattivo rapporto con Travaglio. Anche perché spesso si creano... Chiedo come mai, ma... Lei non ha un cattivo rapporto con Travaglio? No, al di là di non condividere un sacco delle cose che dice, no. Ho un rapporto civile con tutti. Non si è mai scontrato, cioè non è mai stato oggetto di uno di quegli di quelle articolesse di Travaglio che mettono alla berlina le persone, anche con i fatti, per carità. Mai. E come mai? E lo stima per la sua capacità d'inchiesta, o no? No, a me non piacciono le persone che hanno livore e pregiudizi, per cui non condivido il suo modo di fare, che è spinto molto spesso dal livore e dai pregiudizi. Cioè lui vuole dimostrare una teoria, indipendentemente dal fatto se è sicuro quella teoria sia giusta o no. Per cui io sono un po' diverso, metto in dubbio normalmente le cose e cerco di capire la verità. Poi non so se ci riesco, ma ci provo. Senta Crosetto, ieri l'avvocato Pecorella, ospite qui a Radio 24, ha detto che, certo non è accusabile di essere anti-berlusconiano Pecorella, tutt'altro, ha detto insomma basta, è venuto il momento che Berlusconi si metta da parte. Adesso la mia interpretazione è naturalmente un po' più larga rispetto a quello che ha detto davvero Pecorella, però ha detto ci vuole un nuovo governo, un governo di emergenza, emergenza si risponde con un'emergenza, non con questo governo ma con un altro governo di unità nazionale, un governo che può anche non essere presieduto da Berlusconi, che è un modo per dire insomma Berlusconi si metta da parte. Lei che dice? Ma dico che... Cioè è un'ipotesi che lei... Cioè una situazione realistica e soprattutto qualcosa che lei condivide o no? Dico una cosa, posso dire una cosa agganciandomi a quello che diceva prima con Parenzo, no? Sì. C'è una difficoltà a fare qualunque discorso politico in questo momento, perché tutto è offuscato da altre cose. Siccome io sono uno di quelli che pensano, poi sbaglierò, che le intercettazioni siano uno strumento doveroso, utile, giustificato, che la magistratura deve utilizzare per cercare la verità, non siano il modo con cui mettere la berlina chiunque, che si chiami Berlusconi, che si chiami Parenzo, che si chiami D'Alema. Sì. E quindi non riesco a concepire di trovare sui giornali telefonate private che non hanno alcun valore penale e mi raccontano la vita sessuale di una persona o l'ipotetica vita sessuale. Cioè, in un momento così, andare a Berlusconi e dire guarda, ti devi togliere da parte, è un modo per dire hanno ragione quelli che usano questo sistema. E quindi un ragionamento che si potrebbe fare in tempi normali, No. Cioè lei dice, se non ci fosse questo, se non ci fosse la pubblicazione di queste intercettazioni, un ragionamento che sarebbe logico, legittimo, poi al di là del fatto se io lo condivido o meno, logico e legittimo all'interno di un partito, ma per motivi generazionali magari, no? Cioè, così come uno potrebbe fare nel 2013, cioè, il momento in cui hai una persona che è sottoposta quotidianamente a un attacco che nulla a che fare con una democrazia seria, diventa difficile, cioè, come fai in questo momento a fare dei ragionamenti politici? In questo momento c'è una magistratura che spende decine di milioni di euro per vedere se uno è andato a letto con una, due o 15 persone. Vabbè, ci sono delle ipotesi di reato, risponderebbe Parenzo in senso formale. Invece, secondo lei l'obiettivo, l'obiettivo è sputtanare Berlusconi? Parenzo, secondo lei l'interesse... Allora, per carità, io forse sbaglio, forse... aiutatemi a non avere pregiudizi. Secondo lei l'indagine della magistratura è perché questi hanno detto questo Tarantini attacca e ricatta Berlusconi, andiamo a vedere se riusciamo a difenderlo. Cioè, questa era l'intenzione dei giudici? Ma guardi, che esista in Italia la discrezionalità dell'azione penale, non lo scopriamo mica oggi, lo sappiamo almeno da 15 anni. Allora, il problema non è questo, che la discrezionalità di un PM di scegliere quali inchieste seguire, è capire se lì c'è un reato o no, però a questo punto. Ha fatto un'altra domanda. Lei è un PM, no, facciamo finta che Berlusconi non sia Berlusconi. Lei è un PM e le arriva la notizia di reato in una procura in cui magari c'è qualche problemino, suppongo. Intanto Berlusconi ha detto non mollo, nulla di cui vergognarmi, qualche istante fa, e sul caso Tarantini, così è una trappola, non vado. Esempio, lei è un PM e ha davanti a sé mille reati, risorse sia umane sia economiche limitate, no? Deve scegliere tra indagare sulla mafia, la Sacra Corona Unita, oppure sull'ipotesi che ci sia una persona che secondo lui ha portato delle donne da Berlusconi e in base a quello ha ricevuto dei soldi. Ma se Berlusconi non fosse Berlusconi, secondo lei in qualunque procura d'Italia sarebbe mai partita un'inchiesta con 100.000 intercettazioni? Con 100.000 intercettazioni per vedere se era vero o no che un reato simile può essere che lei abbia consumato. Ragione, certo che no. Mi dia una risposta normale. Poi lasci per... non può si essere che lei abbia ragione, certo che no. Può essere che lei abbia ragione. E allora, quando lei mi dice, lei sicuramente non è di parte, certo che no, allora non può, non può. Non è di parte, insomma. Cioè, allora, la domanda successiva è, allora perché? Cioè, allora perché un servitore dello Stato, che dovrebbe comportarsi in un modo razionale, questo qua si comporta così e deve rispondere anche a questa. Servitore dello Stato, lei dice un magistrato. Torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Quello che ho detto prima era una lettera di che domani sarà pubblicata sul Foglio da parte di Berlusconi, nulla di cui vergognarmi, non mollo. Che dicevi, Pardo? No, io volevo fare un ragionamento, perché mi è parso di capire che quindi se non ci fosse questa pressione da parte dei magistrati, per valutando soltanto i risultati politici, invece ci potrebbe essere la tentazione di chiedere a Berlusconi di farsi da parte? Questo le chiedo. La risposta dopo la pubblicità. Eccoci, la Zanzara, 800 24 00 24, il collegamento da Atene, David Parenzo, qui da Milano, Pierluigi Pardo, e non so dove sia, credo è atterrato dove? A Torino, Crosetto? Guido Crosetto, sottosegretario della difesa, PDL. Senta Crosetto, però realisticamente, l'ho detto pure lei se non sbaglio, la figura di Berlusconi ormai è indebolita, cioè a prescindere dal fatto che sia stata indebolita per colpa delle intercettazioni, eccetera. Comunque è una figura ormai indebolita, o sbaglio? Questo è il punto. Ma indebolita, cioè gli stanno quotidianamente con un massacro che nessuno ha mai subito al mondo, stanno cercando in tutti i modi di indebolirlo, di farlo dimenticare, di indebolirlo psicologicamente, cioè di farlo arrivare al punto di dire me ne vado via. Ma mi pare sia chiara questa tattica. Cioè, ma non deve andare via, deve solo andare dai magistrati, cioè, come testimone, non deve andare via. Ma lasciamo perdere dai magistrati come testimone. Prima Pardo chiedeva di governare bene, fare delle riforme liberali e intanto trovare 5 minuti per andare dai magistrati. Ha ragione Parenzo, ma io non so adesso, per carità, non, indipendentemente a chi ci sono, l'Italia si divide in due o tre, cioè adesso ci sarà il 50, il 40 o il 60 a cui non piace Berlusconi, ma se qualunque altra persona avesse subito la metà della pressione che ha subito lui, ma come riesci a sopravvivere psicologicamente? Io devo dire, non so, sarò io che sono più debole, non sarò normale, ma se me ne fossi stato in lui con la sua patrimonio personale, ho detto me ne sarei andato non un anno fa, me ne sarei andato 10 anni fa. Invece una cosa che ha una determinazione, ma chi glielo fa fare di resistere così? Secondo lei chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Glielo fa fare il fatto che probabilmente una persona così, se in una discussione democratica, civile, avrebbe cercato di fare quello che poteva, avrebbe accettato alleanze, avrebbe discutere, di fronte a un attacco così o resiste o ha una forza come lui ha, e quello è innegabile, si vede. Oppure? E quindi non può mollare, ma io riesco a capire che lui non voglia mollare, al di là di quello che probabilmente vorrebbe fare. Cioè, se lui non fosse sottoposto quotidianamente a un attacco come è sottoposto da parte di tutto e di tutti, probabilmente il suo modo di affrontare la vita politica sarebbe stato diverso. Io capisco che lui a questo punto invece non può darla vinta a queste persone, e conoscendo l'uomo combattivo che è, il carattere che ha e la forza che ha, resiste al di là di quello che vorrebbe lui, pur di non darla vinta. Ma lei che consiglio darebbe, però, se fosse vis-à-vis con Berlusconi, magari c'è stato recentemente, non lo so, cioè, che consiglio gli darebbe? Entro, come ha detto Formigoni recentemente, poi smentendo quello che non era possibile smentire, cioè molla entro l'anno e avvia un processo, che ne so, cioè, che consiglio darebbe? Ma se ragionassi, se pensassi a lui come un figlio può pensare al padre, gli direi ma manda tutto questo paese veramente a stendere, certo. Manda il paese? È un modo di dire piemontese, mi scusi, quando torno in Piemonte manda il paese a stendere, sì. Cioè, manda al diavolo queste persone e goditi la vita, cioè, nel senso, vivi da privato cittadino come vuoi. E fai male a queste persone, la smettono di rovinarti la vita. Ma se ragionassi se fosse mio padre, questo sarebbe il ragionamento che io gli farei. Se faccio un ragionamento egoistico da moderato, lui è quello l'unico che è stato in grado di tenere assieme i moderati in questo paese, quindi potrei pensarlo diversamente, ma è impossibile sopravvivere a un clima di questo tipo. Cioè, lei pensi che essere non c'è più un atto della sua vita privata che non sia pubblico nel giro di un'ora, di un giorno, che non sia sui giornali. Ma al netto, ma se telefona a signor Lavitola, insomma, qualche problema c'è, no? Ma Parenzo, io non se so telefona a lei, Crosetto, ad esempio Berlusconi. Se telefona a lei Crosetto, che è una persona per bene, seria, di un uomo di governo, non esce sui giornali la conversazione. Telefona a Maristel Polanco o al signor Lavitola e purtroppo esce sui giornali. La telefonata con me non esce sui giornali soltanto perché una siete delle due deputati. Ma è chiaro, ma ho detto lei, la posso dire anche. Ma certo, ma difatti le 1000 telefonate di Berlusconi non escono sui giornali. Lei, cioè, esce, schicchiamo una persona e se magari fa stanco una battuta, volgare o meno, come io, lei e qualcun altro avremmo fatto 1000 volte nella vita al telefono con un nostro amico, anche con gli altri, che il giorno dopo se la trova sul giornale. No, io voglio capire se al netto di tutto questo discorso fondamentale, importantissimo, della pressione, delle intercettazioni, poi il giudizio che lei dà politicamente, perché siamo partiti dal presupposto che non gli si può chiedere di farsi da parte perché in questo momento è sotto pressione, ma dal punto di vista politico, del risultato politico di questa legislatura, gli si può invece chiedere di farsi da parte oppure bisogna essere pienamente soddisfatti? Un attimo solo, è più facile intervistare i politici che i cosi, che i calciatori. I politici amano farsi intervistare mediamente, adesso non so, l'onorevole Crosetto, i calciatori è più difficile perché hanno paura, poi danno quelle risposte spesso un po' di circostanza, però c'è una differenza, qualcuno probabilmente ama, guarda, farsi intervistare è un modo per dire delle idee, no? È una parte. Cioè, lei è soddisfatto dei risultati del governo in questi anni, di questa legislatura? Parzialmente, solo parzialmente, certo. Ma ad esempio adesso, se posso fare un discorso serio, queste due manovre su cui i miei giudizi li ho già espressi, evito, hanno aggredito una cosa fondamentale che era aggredire il deficit, adesso rimane da aggredire il debito e fare qualcosa perché il prossimo anno questo paese cresca, quindi per la crescita. Quindi queste cose vanno fatte nel giro del prossimo mese, non possono essere fatte nel giro del prossimo anno. Allora, questa cosa qua le può fare il governo in carica. Senta, ma c'è una cosa che lei sul piano dei, come dire, dei rapporti privati di Berlusconi rimprovera a Berlusconi, una cosa che direbbe a Berlusconi oltre al fatto se fossi suo padre. Berlusconi ha un rapporto molto franco. Appunto, no, c'è una cosa che dico, che ne so, esagerare il presidente, cioè troppe feste, troppe ragazze, insomma, voglio dire, poi alla fine alcune cose è evidente, al di là delle intercettazioni ci sono, no? Guardi, la critica più grande che faccio a Berlusconi, conoscendolo bene, farà ridere tutti quelli che non lo conoscono, probabilmente, è di essere troppo buono e troppo generoso. Il problema di Berlusconi è che se chiunque persona riesca a superare la sua segreteria e entrare in contatto con lui, si trova davanti una persona che normalmente difficilmente dice no e che ha difficilmente tratta male le persone, anche se si trova davanti il più cafone o il migliore, tratta tutti allo stesso modo. Cioè, la grandezza umana di Berlusconi è il fatto che lui tratta l'ultima persona d'Italia o il capo di Stato straniero allo stesso modo, con la stessa cortesia. E parlo per esperienza, cioè parlo perché io in Berlusconi sono stato in questi anni caricato da lui di decine e decine di casi umani, di persone che scrivevano le lettere a lui, le leggeva la sua segreteria, arrivano a lui di sicuro, poi mica vedere questa cosa, poi mica, cioè. Quindi si è sempre raccontato un Berlusconi. Probabilmente il giorno che lui non avrà più l'incarico, noi saremo l'opposizione, avrà deciso di andarsene, si scoprirà il 100% di Berlusconi e verrà probabilmente fuori una persona diversa da quella che è venuta fuori negli ultimi anni. Sì, provo a dire, c'è si capisce che è buono, c'è che è buono. C'è un Berlusconi scandaloso, cioè, come lo scrive oggi anche Giuliano Ferrara, cioè, c'è un Berlusconi scandaloso che lei in qualche modo che... Cioè, c'è un Berlusconi che... cui piacciono molto le donne, non c'è dubbio. A cui piacciono le donne, che ha un rapporto eccessivo dal mio punto di vista. Eccessivo con che cosa? Ma eccessivo nel senso che, scusi, adesso, tanto per capirci, valga per tutti noi quattro che siamo al telefono, sì. No? Stare con una, stare con due, stare con tre, avere, che poi probabilmente dipende anche dalle possibilità, poi io sono, avere? Avere più donne e cercare, può essere una cosa che qualcuno giudica eccessiva, poi probabilmente nella sua posizione ci sono milioni di persone che potendo stare con delle donne bellissime sarebbero tutti i giorni con una donna diversa. Cioè il suo errore è la, da questo punto di serialità. Vista è la serialità. La serialità non è un errore, perché guardi, la quantità, per me è la quantità, io sono sostanzialmente monogamo, fin quando sono stato sposato sono stato solo con mia moglie, mi sono separato, dopo pochi mesi mi sono messo con la compagna con cui sto attualmente e non cerco altro. Probabilmente c'è gente che tutti i giorni cerca, cioè Berlusconi è uno che tutti i giorni cerca. A cui piacciono le donne, certo, ma le piace più, guardi, poi devo dire, è uno a cui piace sedurre le persone, mi passi questo termine. Che vuol dire di Cassano, donne, Pardo? No, uomini, e tu se adesso sei... No, vabbè, c'è la famosa cosa del libro di Cassano, delle 700 donne, che è diventata abbastanza... Sì, ma non rileva, non c'entra, anche perché adesso è felicemente sposato, fedele e con un bambino di 4 mesi. Quindi torniamo... Cioè, stavamo dicendo, Crosetto? No, stavo dicendo della... No, è interessante, cioè... questa cosa dell'errore di Berlusconi, secondo Crosetto, è anche questo, l'errore, poi insomma... L'errore... L'errore, cioè un presidente del Consiglio non può essere un seriale da questo punto di vista, non c'è dubbio, perché altrimenti la serialità a un certo punto viene alla luce. Se ne parla della serialità, giusto? Ma sa, non vede, il mio giudizio non è perché... Cioè, lo sa come si dice? Il presidente del Consiglio io lo considero un uomo come me, lei o Parenzo. Certo, non so che vizi abbia Parenzo, no? Però lo sai come si dice, parlando in privato, uno dice malato di... qualcosa, no? Sì. Esatto. Malato di qualcosa, cioè... malato di gnocca si dice. Sì, ecco, Parenzo, esatto. Sì, no, grazie, no, per il chiarimento. Grazie per il chiarimento. Guardi, ecco. Io ho un sacco di amici. Lo so, ad Atene si dice malato di gnocca. E anche qualche parente che ha la stessa malattia. Esatto, e poi, più o meno Berlusconi è così, no, Crosetto? C'è gente che a cui piace, tra questo cui... intacca diciamo la produttività, ma si può io vorrei capire, le donne, c'è gente che mi piace di più, c'è gente che mi piace meno, c'è gente che si trattiene, ecco, Berlusconi è uno di quelli che è malato da questo punto di vista, malato di malato non nel senso malato, mi sembra, sì, il termine non mi piace, è uno a cui piace molto, appassionato, un appassionato come il golf. un cultore della materia, ecco, questo è buono, un cultore della materia. Allora io voglio dire, si può essere cultori della materia e nello stesso tempo presidenti del Consiglio? Sì, bastano frequentare Tarantini. No, ma lascia perdere, si può essere cultori della materia ed essere presidente del Consiglio, cioè se le due cose a un certo punto possono entrare in contrasto anche dal punto di vista, come diceva Pardo, della, come dire, no, della produttività, cioè della produttività. Io non so veramente, giuro, non so, però. O no? Vabbè, cioè, scusi, adesso se ognuno di noi dopo la giornata di lavoro va a casa con la sua compagna e con la sua compagna se le piace cerca di... Ma la sua compagna, dopo, noi stiamo parlando non di cultura... Soprattutto è dopo la giornata di lavoro. È una cosa normale, no? Sì, ma non stiamo parlando di situazioni... Cioè, stiamo parlando di cultori della materia, un po' diverso. No, c'è un sacco di gente che se tutte le sere potesse trovare una donna diversa non si sentirebbe offesa nella sua capacità di lavoro. No, ho capito, ma... Questo è un esto dilettantismo, stiamo parlando di presidente del Consiglio, cultore della materia. Le due cose sono in contraddizione. Ma io no, assolutamente, non penso. Non è in contraddizione. E il problema di Berlusconi è il fatto che tutto quello che lui ha fatto nel privato, il giorno dopo è sui giornali pubblici. Questo è il problema che c'è stato in questi anni. Però anche il fatto che... La storia, poi voglio solo intervenire su una cosa, anche la storia di Tarantini, no? Sì. Ma secondo voi, adesso, questa è la dimostrazione dell'approccio di Berlusconi genericamente alla vita, perché uno come Berlusconi... Cioè lei crede alla questione della che è una famiglia... No, solo per capirci, proprietario di Mediaset. No, quindi, presidente del Consiglio... Sì, un attimo solo, pubblicità e poi torno da lei, Eccoci, 800 24 00 24, con Guido Crosetto in collegamento da Torino e da Atene oggi. Nel frattempo sono arrivato a Marene, piccola città della provincia di Cuneo. Senta, Crosetto, ma che voleva dire di Tarantini? Tanto abbiamo visto le foto su Repubblica, qua, Parenzo, Pardo. Sono abituato a Parenzo, sì. Pardo. Di Maristel Polanco, protagonista delle notti di Arcore, della vicenda anche di Ruby, che entra trionfalmente a Milan Channel dalle notti di Arcore, questo è il titolo, dalle notti ad Arcore alle telecamere di Milan Channel. Vabbè, questo non mi pare uno scandalo. No, ma che è uno scandalo? Prima l'avvocato Tormina diceva come mai è una televisione privata, bella, e quindi assume chi gli pare. Sì, fatto. Sì, per carità, assolutamente. Non è in regione Lombardia, diciamo. Cosa? Ah, non è in regione Lombardia. Non è in regione Lombardia. Come la signora Nina Minetti che ieri andava in giro per Milano ieri con una t-shirt con su scritto... Una canotta. Senza t-shirt sono ancora meglio. No. Sì, così. Tu non l'hai visto perché sei ad Atene, non sei collegato col mondo. Crosetto, che diceva di Tarantini? No, stavo dicendo, secondo lei queste che sentite sono i rumori delle macchine agricole che passano. Sì. Secondo lei una persona, Berlusconi, proprietario di Mediaset, presidente del Consiglio, perché del mondo ha bisogno di Tarantini per le donne? Beh sì, assolutamente sì, come no? Questo è assolutamente credibile, non è quello che ho detto, come no? Ma come non ha bisogno? Certo che ha bisogno di un sacco di persone, dipende. Se stiamo parlando di cultori della materia, ha bisogno sì di Tarantini, come lei ha detto. Come no? C'è bisogno di Tarantini che conosce un sacco di gente e che porta persone. Ma io guardi, non ci trovo niente di strano, niente di particolare. Io invece quello. Cioè, lei non crede che Tarantini abbia portato delle donne a casa? No. Le facevo un esempio, facevo un'altra considerazione. Secondo lei ha bisogno di uno come Tarantini per conoscere delle donne, uno come Berlusconi nella posizione di persona? No. Ed esempio, lei mi dice come mai frequentava una persona così? Ed esempio che le dicevo prima, Berlusconi è una persona che se uno riesce a entrare nella sua sfera, dà amicizia e dà normalmente fiducia a tutti. Sì, quindi, ho capito, d'accordo. Usavo il termine solo per raggiungere un'altra cosa. Per cui, no, ma scusi, Crosetto, mi viene questo esempio. Non mi stupisce che oltre all'amicizia con alcuni dei più grandi leader del mondo, con persone serie, ci sia qualcuno che magari non sia uno stinco di santo e che avvicinando, essendogli simpatico, lui ha trattato come una persona che ti è simpatica senza sapere chi è e chi non è. Quindi questo è il modo di fare di Berlusconi nelle relazioni che ha sempre avuto. Lo sa benissimo Parenzo, che lo conosce da tempi non sospetti. Questa è una delle grandezze umane di Berlusconi, è vero, però politicamente sfruttato dai magistrati, un problema. Scusi, tutto qua. Le fa questo esempio. Il Presidente del Consiglio non è Facebook. Cioè, su Facebook, se il signor Pardo, che magari io non conosco, mi chiede l'amicizia, io gliela do l'amicizia, accetto, metto. Ma Berlusconi non è Facebook, è il Presidente del Consiglio! Viva Dio! No, però vede, Parenzo, questa invece è non è un social network, è quello che nel bene o nel male. Perché così? Perché e quello perché che fa adesso lo faceva anche 25 anni fa. Quello che faceva prima lo fa adesso. Cioè il modo che ha lui di relazionarsi con le persone è diverso da quello che io che ha lei. Perché se volesse avere la possibilità di avere, visto il potere che ha avuto in questi anni, avere la vita delle persone che deve incontrare prima, lo farebbe, ma non lo fa, non lo fa pregiudizialmente, perché la è così, si distingue le persone, non in persone che nobili, potenti, con cui parlo, cioè, in persona mi è simpatico, gli parlo, non mi è simpatico, lo tratto bene lo stesso e magari non lo rivedo. Berlusconi ha questo approccio alla vita. Berlusconi come Facebook. Lo stesso che aveva quando aveva 20 anni, l'ha conservato quando aveva 30, 50, è stato probabilmente uno dei fattori della sua grandezza, perché se lei parla con quelli dipendenti di Mediaset, prima che lui entrasse in politica, le dicono che lo affascinava, che era un trascinatore, ha creato quello che ha creato grazie alla capacità di trascinare anche le persone. Quindi questa cosa se la porta dietro, non la toglierà mai, ed è inutile spiegare a Berlusconi, guarda che tu non devi parlare con quella persona, perché Berlusconi, se una persona gli è simpatica, o in altri casi se una persona gli provocano delle emozioni, con quella persona parla e si relaziona lo stesso, e dipende da quello che possiamo dire io, lei e qualcun altro. Non so se faccia male a farlo, poi adesso questo gli crea dei problemi, e lui è così forte che se li porta dietro, se li pagherà anche questi problemi, ma è così e non è voluto cambiare. Bene, grazie a Guido Crosetto, sottosegretario della difesa, buon viaggio. 20:21. Saluta mio figlio che vi ascolta. Saluti a Crosettino. Come si chiama il figlio? Come si chiama? Alessandro passi Crosetto. Un attimo, va? No, che devi passare? Magari minorenne. Passi minorenne. 14 anni, ma è 1,88 m, quindi Parenzo è già pericoloso. Bene, grazie. Eccoci qui. Allora, che facciamo, ascoltatori? Che dici? Parlo. Sì, vai ascoltatori, parlo, facciamo Dica, vai, che è Vitalba, facciamo? Vitalba da Roma, sì, Vitalba da Roma, sì, Vitalba da Roma. Buonasera. Sì, Dica. Allora, io volevo rispondere alla domanda che lei spesso fa ai suoi ospiti circa la eventuale ricattabilità di Berlusconi. Sì, non è che ogni sera sono fissato su questa cosa, ogni tanto domando, non è che c'è una fissazione. No, perché è una domanda che talvolta fa. Allora, io parlo da questo già qualche anno fa, ma non importa. Sì, allora, se partiamo dal presupposto che è ricattabile qualcuno che ha un qualche comportamento che tiene nascosto. Sì. Fra poco un collegamento particolare con Fabio Capello. Perché vogliamo capire da Fabio Capello se c'è qualche possibilità che diventi allenatore dell'Inter. Fondamentale questa cosa qui. Fondamentale. Vitalba, dica. Allora, quindi se partiamo dal presupposto che è ricattabile qualcuno che ha qualcosa da nascondere, allora io mi chiedo, una persona che comunque fa delle feste in grande stile, invita un sacco di gente a casa sua, più di 50 persone, eccetera, sicuramente non sta facendo qualcosa che vuole tenere nascosto, voglio dire, avesse invitato una persona, una donna, sicuramente forse poteva contare sulla discrezione di questa persona, 50 persone mi sembra difficile. Di conseguenza io non credo sia ricattabile, perché a mio avviso non faceva nulla che lui intendesse tenere segreto. Quindi mancano proprio i presupposti. Ma non è che il fatto di organizzare feste o ricevimenti o serate eleganti o cene conviviali, come le chiamano i difensori di Berlusconi, sia come dire la dimostrazione che non ci sono ricatti. Uno un ricatto lo può subire, c'è qualcuno che gli chiede magari dei soldi per stare zitto, dei soldi per non raccontare le cose come sono andate, non lo so, può essere, cioè il fatto di organizzare cene con tante persone non esclude il fatto di... Bisogna vedere poi quello che succede in queste scene, insomma, è sempre ma evidentemente non temeva il fatto che comunque le cose potessero essere raccontate, perché più persone inviti e chiaramente più la notizia diventa pubblica, no? Certo. Fabio Capello in diretta da Londra, buonasera. Voilà. De moschetta. No, lo sapevo che volevi farmi fare questa cosa. Non sarebbe... First of all. Come che parla inglese, Capello? Non benissimo. Il mister è un grande, insomma, ha tante qualità. Poi, insomma, si è buttato a una certa età a mettersi a fare questa. Però non benissimo. First of all, una volta al mondiale, in conferenza stampa, sotto pressione, disse Rooney R. No, Rooney è un giocatore, Rooney is, non è che sono due perché finisce con Rooney, finisce con la I, però insomma è un grande personaggio, non torna comunque. Come lo fai? Fallo in italiano. Punto di vista tecnico-tattico, abbiamo concesso Pucco nella prima parte, Ma non faccio l'imitatore, non sono come Parenzo che è prestato ormai, che è caduto qui nella trappola della zanzara. Però devo dire che il capello, ogni tanto è capitato insomma di incontrarlo anche di andarci a cena, e mi partiva un po' l'imitazione, perché io vado in Toscana, parlo toscano, cioè, capito? E lui è molto sportivo da questo punto di vista. Ti guarda sempre un po' storto, come dire, chi sei? Vabbè. Ma il calciatore più di destra che c'è, chi è? E non lo so chi è. Ma parlano di politica, mal volentieri. Ma sì, parlano un'intervista, allora, famosissima, i giocatori parlano abbiati, poco in assoluto, perché hanno paura che ogni frase, ma perché insomma ogni frase può essere, e poi insomma spesso parlano nell'adrenalina subito post partita, quindi rischiano di fare dei casini mostruosi. Ecco, la differenza dai politici è questa, che i politici li puoi chiamare come fai tu a Controcampo lì la notte, a l'una di notte, tranquillamente mettono il faccione. I calciatori invece hanno paura e spesso si trincerano in quelle frasi tipo decide l'allenatore, poi in realtà lo odiano, oppure un pubblico meraviglioso, oppure abbiamo rispetto di tutti, la frase abbiamo rispetto di tutti e paura di nessuno, che è una classica frase, fa un po' insomma. Però di destra sono parecchi, almeno erano parecchi, adesso non so se Di Canio, sì, l'ha detto pubblicamente. Di Canio è destra sociale, insomma, l'ha sempre Abbiati, no? Abbiati, si dice, cioè, che Abbiati aveva sì, il busto, sì, no? Si dice, io non l'ho visto, però si dice, insomma, è un busto di Mussolini a sinistra, casa, insomma, c'è chi ha fatto outing un po' più chiaramente, però insomma, la politica non è un argomento del quale parlano con grande facilità e con grande Tommasi, di sinistra, ma non lo so, no. Non lo so. Credo che Tommasi ha sempre avuto l'immagine ed è oggettivamente un giocatore intelligente che ha saputo gestire la propria immagine molto bene. Quindi, e infatti, infatti è diventato avvocato. Tommasi, vabbè, pazzo. Parenzo, ma tu sei dell'Olympiacos o del Panathinaikos? Perché lì fra un po' ti verrà chiesto di schierarti. Panathinaikos, perché ho visto anche l'allenatore oggi. Sì, chi è? Non lo so, però me l'ha detto l'operatore in greco, ha cominciato a urlare, dico chi è Papandreou, dice no, è quello del Panathinaikos, chi se ne frega, certo. Io devi stare Papandreou. C'è Tsarvos adesso che è venuto, portiere del Palermo, vabbè, passiamo ad altre cose, vai. Andrea, chi è? Luca da Parma. Eccoci. Dica. Stordito dalle vostre due ore di vostra conversazione, dove proprio il livello del bar dello sport. Vabbè, adesso, insomma, no, ma... A parte che non mi vergogno per niente, ma insomma non è che ci sia stato solo quello. Insomma, no, lo dico perché dunque, lei crede che, cioè, mettiamo un attimo i puntini su lei. Taormina dice all'inizio, è ovvio che Berlusconi è stato perseguitato in questi anni, lo diceva anche Crosetto, ma perseguitato perché ha avuto 21 procedimenti penali? Ma sapete quanti procedimenti penali della Procura di Brescia ha avuto Di Pietro? 50. Sapete quanti ne ha avuti Borrelli? 317. Dubbio, procedimenti penali mi sembra procedimenti strano. Penali. Bah, adesso 300 allora, procedimenti allora, penali contro allora, Borrelli, francamente non me lo ricordo. Allora, se vi si informi, Cruciani, così. 300 qui, procedimenti penali. Non è che uno telefono dai numeri, dice, sapete quante è? 27. E chi se ne, come fai a controllare? Vabbè, comunque insomma, guarda, però, allora, certamente domani, non si può dire, lasciamo perdere Di Pietro, sicuramente qualche scusi un attimo. Non mi pare Borrelli un perseguitato dalla giustizia, abbia pazienza. Adesso, Di Pietro, può darsi che qualche procura sia stata più solerte oppure spinta da qualcuno a occuparsi delle vicende di Di Pietro, va benissimo. Non mi pare Borrelli 50, così l'emblema. Dico 54, ma io non sto difendendo, non voglio difendere Di Pietro. No, ma ho capito quello che dice lei. Non mi pare un perseguitato dalla giustizia. Forse questo ha avuto Berlusconi, ha avuto 21 ad oggi. Sono 21. Vabbè, ma qual è il punto? Non ho capito. Allora, il punto è, si dice che è perseguitato dalla giustizia, eccetera. Poi lei, diciamo che i giudici hanno una particolare attenzione nei confronti di Berlusconi, nemmeno questo lei concede? Ma una particolare attenzione nei confronti non è così, va bene, d'accordo. Ma non particolare, cioè ci non sono particolare. Delle ipotesi di reato e la vabbè, ma questa è una questa è una posizione. Se poi, no, ma le dico una cosa, perché è molta evidenza? Perché è il presidente del Consiglio, come quell'altra cosa. Lei diceva prima, io credo che la Procura di Napoli abbia intenzione di incastrarlo, comunque di mettere la berlina a Berlusconi. Ma di... non è la berlina, vogliono capire se è ricattabile. Ma se è ricattabile Berlusconi, non è che è il presidente del Consiglio, non è che se è ricattabile mia nonna non frega niente a nessuno. No, guardi, che la procura di Napoli non è che può decidere di iniziare un'indagine per capire se Berlusconi, in quanto presidente del Consiglio, è ricattabile, siccome è importante per il paese. Non è proprio così che si ragiona, se proprio vogliamo ragionare in termini formali. Ma non è imputato, infatti. Sì, d'accordo, infatti. È un testimone. Vabbè, ma lei si ferma alla questione formale, cioè i magistrati vogliono capire se Berlusconi è ricattato. Questa è la posizione, quella la stessa di Parenzo. Cioè, va bene, vogliono appurare se da tutto quello che emerge dalle intercettazioni, se un ragazzo di 30 anni che portava delle signorine a casa del Consiglio, magari facendo delle richieste, e non essendo queste richieste esaudita del Presidente del Consiglio, poteva dire attenzione che te lo metto, sì, metto in diverse voci. Secondo lei una cosa a difesa di Berlusconi, cioè i magistrati stanno indagando Tarantini eccetera per difendere Berlusconi? No. Vogliono sapere se il reato di ricatto, sì, da parte di Tarantini e Berlusconi è reale. Se fosse reale sarebbe grave per Berlusconi, perché è un Presidente del Consiglio. Ma questa è una considerazione che i magistrati non possono fare, non è che possono dire facciamo un'indagine perché se fosse grave. Ma questa non è che la fanno i magistrati, quindi la facciamo noi. Lei si ferma. Ma lei... perché dimenticate un pezzo della storia? Qual perché? È il pezzo della storia? Dicelo tu, ce lo dici dopo la pubblicità. Voi matti. Prossimo futuro, quelli che la pensano come me rispetto al trionfo dovuto a balle raccontate per 17 anni rispetto a quelli che hanno fatto, quelli che dicevano di pensarla come me, quelli come Diliberto sono dietro l'angolo, sappiatelo, quelli come me per sopravvivere con dignità dovranno elemosinare, questo è il punto vero al quale io non riesco a stare la notte tranquillo senza con le freccette al signore che diceva che mi dava l'aliquota del 33% nel 94, tirargliele sul naso, e non è Diliberto. È più liberale Diliberto o Berlusconi? O Tremonti? È meno liberale chi ha fatto di questo Stato il ladro delle mie tasche, e non è Diliberto. No, le freccette sono bellissime, le freccette, eh? Parenzo, le freccette. Meravigliose. Le freccette. Anch'io voglio le freccette. Com'è che abbiamo fatto l'altra sera? Freccette, freccette, freccette, freccette. Le freccette di Giannino contro il pupazzetto di Berlusconi che non ha abbassato le tasse al 33%. È un momento onirico. Va bene, Simone da Milano, buonasera, 800240024, Simone. Sì, buonasera, signor Cruciani, buonasera a Parenzo e ai suoi ospiti. Ciao, caro. Niente, io sono di Sesto San Giovanni, provincia, sì, di Milano. E dunque? Niente. Non penso che lei ci abbia chiamato per dire che è di Sesto San Giovanni, perché altrimenti facciamolo esprimere. Simone, vai. Siamo una città alla ribalta nelle cronache giudiziarie o comunque investigative degli ultimi mesi. Ecco. Ma non basta io chiamavo però in merito al. Dopo, se posso esprimere una mia opinione sulla situazione di Berlusconi e compagnie, più che volentieri. Insomma, anche adesso, vai Simone. Non è un argomento di cui di solito non parliamo, ecco. Sì, ecco, francamente, cioè, non è così secondo strano. Secondo me ci sono cose un po' più importanti, no? Però diciamo che alla stampa, per esempio, mi sembra che gli piace rincorrere un po' questo tutte le vicende di Berlusconi, no? Mentre io volevo spendere due parole, no? In merito a... Io sono un elettore leghista, no? Da sempre, no? E francamente, se devo dire la verità, mi ritengo veramente deluso da quello perché, che possiamo perché definire cosa, un per po' esempio? Il mio partito. Perché Ma cosa? Perché ho visto che col passare degli anni mi sembra che il partito che doveva portare un po' una rivoluzione, diciamo in termini assolutamente pacifici, nel senso che io credo nel progetto della Lega, nella Lega del federalista, ecco, non sono un fanatico della Padania, che credo che oggi nel 2011 non abbia modo, pare che non è mai esistita, però voglio dire, oggi credo che abbia ancora meno senso, no? E quindi diciamo che tutti questi rituali come oggi dell'ampolla, che può da fare la Lega? Cioè, la Lega ce l'ha sempre avuto questa ambizione, sì, diciamo questo che sogno. Una volta, quando avevo io 40 anni, no? Una volta quando ne avevo magari 20 e il partito stava nascendo, magari poteva avere un senso per magari così dare un minimo di identità magari a delle regioni Scusi, che magari l'avevano, Bossi, l'avevano sempre, un po' persa, sempre dalla Villa, no? Reale di Monza. Bossi, ha sentito questo elettore deluso che chiama da me? Dire che abbiamo fatto il federalismo fiscale. Beh, ancora questo federalismo. giusto per il bravissimo Parenzo, no? Ma guarda, si fermi un attimo. È vero che la Lega ha fatto. Ma non può interrompere Bossi così, un attimo solo. Ma è deluso, prego, è deluso, prego. Altrimenti non... Sono ad Atene, cosa c'entro io? Ma poi Simone è deluso. Allora, se posso dire all'onorevole Umberto Bossi, io direi che insomma alla vita reale probabilmente ci sono cose più importanti da fare, no? Io credo che come me anche non so i leghisti delle valli bergamasche, così come delle valli del Vicentino, del Trevigiano, ma non si può controllare il telefono alla radio magari, chi è sto stronzo, ne possono fare a meno, no? Scusi un attimo, se ne può fare a meno dell'ampolla del Po. Si può fare a meno dell'ampolla del Po. Ma amici napoletani, Simone è un amico napoletano? Certo. Come si chiama? Ma anche l'amico pugliese, perché guardi che io sono lavoro nell'ambito del commercio, prevalentemente diciamo nella produzione, no? Quindi ho contatti con aziende sparse in tutta Italia, no? Ci sono dei bravissimi imprenditori al sud, al nord, ci sono dei cattivi imprenditori al nord e al sud, voglio dire. No? Va bene, Simone, un attimo solo, però eravamo con Bossi, scusi, non è che puoi interrompere ancora. Prego, allora, prego. Sempre dalla Villa Reale di Monza, onorevole Bossi, che cos'è? Ah, la Villa Reale di Monza, quando metti i centralini della Villa Reale di Monza mandano. È l'attesa, l'attesa della chiamata. Mandano in onda questo suono. Senta, ma. Abbiamo fatto. Fai zitto, intanto. Abbiamo fatto federalismo fiscale, questo dovete sapere tutti. Beh, sì, dobbiamo adesso sapere. Sono qui con Calderoli. Sì. Calderoli, sempre qui con me, Calderoli. Eh sì. È bravo Calderoli. Non so. Non è venuto, fra l'altro, a prenderci a legnate, quindi. Siamo, chiedo, parlo. Mamma mia, parlo pure, parlo. Pardo. A Milano quando devono chiamare Pardo a Mediaset fanno chiama Pardo e poi fanno così a Milano. Vabbè, ho capito. Cioè, scusi, domani me lo fanno davvero. A Mulè cosa vogliamo dire al direttore di Panorama? Scusi, direttore di Panorama a Mulè che ha questo cognome che veramente mi ricorda robe arabeschi, robe del sud, mule suona, e anche cacofo, mule, al nord c'è solo Brambilla, beh. Vai a dirigere il tuo Panorama, vai a farlo via da Milano, torna a Catania, a Caltanissetta, vai via mule, via. Ma scusi, ha semplicemente scritto un articolo in cui ha un po', come dire, fatto, tratteggiato la situazione, dipinto, fotografato la situazione nella Lega con questo ruolo di sua moglie, la signora l'ordine è arrivato da Arcore. Lei dice è arrivato da Arcore. Collezione a pezzi. Senta, ma novità sui suoi figli? C'è qualche novità? Allora, grazie a Radio Padania che ha posto questo problema. No, non è Radio Padania, è Radio 24 questa qua. 24, 0024, è il numero verde per trovare un posto di lavoro a Renzo Bossi, è un numero verde che abbiamo istituito con la signora Barcegaglia, il signor Tamburini, che è una brava persona. Quello sì, è una brava persona. A Bordocampo. Non come quel Cruciani che gli vado, ma ai le legnate che gli do sulla testa, vedrai come canti quando a calcire il culo da Milano a Catania, dai. Ai, andare a parti, ma che parti? Parti tu parti da Milano. Ma io che c'entro, scusi. È un soliloquio. Vabbè, ho capito. Cruciani, bisogna. Non ci sono novità, mi sembra, allora, su nuovi lavori per i suoi figli. Un posto da bordocampista, è un lavoro nobile. Interviste. Un numero verde anche al Ministero del Lavoro. Ministero del Lavoro. Un numero verde. Chiunque abbia un lavoro per Renzo può chiamare il Ma è consigliere verde. Regionale in Lombardia. Poi dopo si vota purtroppo. Beh. E cosa fa dopo? Raccoglie l'acqua del Po un giorno. No, ho capito, ma i voti li prende, no? Sei il coglione. Ho capito, l'hanno votato una volta, non è che l'ho votato sempre, adesso ho visto che è un trota, non la vota più. Bisogna trovare un posto di lavoro. Simone lo rivota? È andato via? Simone. Deluso. È deluso, molto deluso. Vabbè. Onorevole Bossi, le posso presentare un suo. Dove è andato Calderoni adesso? No, Calderoni. Non lo so. Dove è Calderoni? Non so dove è andato. Sempre in giro per la villa a prendere l'acqua. Lo conosce il signor Boni, Davide Boni? Boni è bravo. Un attimo, signor Boni? Sì, buonasera. Buonasera, come sta? Sì, sto andando a fare un comizio. Dove? A Pradella, Pavia. A Pradella, ma è Stradella, Pavia. Cultura padana di Cruciani, bassissima. No, L'A21, L'A26, che cos'è Stradella? La qualcosa, L'A21. Non ti avventurare anche tu. A21, Stradella. Ma perché Pardo conosce le strade in base a... Certo, le partite. Stradella la fai per andare verso... Se devi andare da Genova a Udine, per esempio, passi per Stradella. È vero. Cosa pazzesca. È vero, e tagli. Che vuoi fare? La 7. dai. Vabbè, intanto Boni. Pare fonti interne ci dicono che la Polanco hanno bloccato il contratto, il caso Polanco a Milan Cenne, una cosa pazzesca, per il polverone che si è alzato. Lei conosce la signora Polanco, Davide Boni, no? No, no. Non ha il piacere? Però invece conosce la signora Minetti, l'altro giorno era in giro per Milano, che è consigliere regionale come lei, con questa t-shirt, con scritto sotto la t-shirt sono ancora meglio. L'ha vista io la foto? Non ho condiviso questa scelta. No, ma c'è un consigliere consigliere può fare quello che vuole. Vabbè, punto, nella vita però... uno fa quello che vuole, certo. Sì, ho capito, adesso il consigliere Minetti già è sotto i riflettori per altre cose, ecco, questo io me lo sarei risparmiato. Però sì. Che differenza c'è tra portare una felpa con sopra scritto Lombardia e la adesso bisogna, io no, adesso questa è una, ti posso dire che è una felpa con scritto Padania Libera addosso. Ah, lei ha una, lei ha una felpa con scritto Padania Libera. Sì. Ma c'è mai andato al consiglio regionale con questa felpa lei? No, con la felpa no. No, con cioè, la felpa. Posso fare una domanda, perché cioè, c'è un abbigliamento da comizio e c'è un abbigliamento da istituzione o no? È naturale, quando faccio il presidente del consiglio, al di là del fazzolettino verde, è naturale che c'è, porto la giacca e quanto è possibile la cravatta. E allora perché la signora Minetti non può girare con quella maglietta, ma no, quando va a fare shopping? Ma no, lei può fare quello che vuole. Io non ho detto che non deve girare con quella maglietta. Penso che forse abbia cercato lo scoop e i giornalisti li hanno fatto, è sempre un consigliere regionale, ecco, via. Beh, uno che è sotto, cioè una persona che è nel mirino, diciamo, dell'opinione pubblica, della stampa in particolare, per le vicende, le note vicende che riguardano i suoi rapporti con Berlusconi, se va in giro con una maglietta con scritto sotto questa t-shirt sono ancora meglio, consigliere regionale, come dice Boni, forse se lo poteva risparmiare, diciamo la verità. Su questo sono d'accordo con Boni, Ma perché? Parenzo, poi ma magari... ma Boni può indossare giustamente la felpa Padania Libera e la signorina non può mettere la... A me piace di più la maglietta della signorina, ad esempio. Vabbè, grazie, questo non c'è dubbio. Che a Parenzo piace più la maglietta. Condividi il messaggio, Parenzo, no? Ma è condivido in toto la sostanza, immaginavo. Il mio messaggio politico sulla maglietta, quello della collega Minetti, non è un messaggio politico, mettiamola così. Allora, traffico, torniamo subito. Boni, resti lì finché inizia il comizio, se vuole. Ha sentito Bossi? Sì, è il nostro Bossi, ma il nostro Bossi è chiaramente... Ah, il nostro Bossi, sì, l'ho sentito. È strepitoso, dica la verità, Boni. No, beh, bravo. Bravo, Un po' di... Satira, queste cose vanno sempre bene, non dispiaccio. Ma stasera, visto che oggi Bossi ha detto che il governo non dura fino al 2013, alla piazza con la felpa, che cosa dirà? Che il governo cade prima? Che... Io dirò che alla piazza che ci vogliono i numeri per fare i cambiamenti e se si vogliono fare i cambiamenti bisogna votare la Lega, perché se no... Vabbè, quello ci venga a fare il comizio, comizio qua a noi, però... No, ma per vatto, sai, io sono un soldato, se il capo decide che salta al governo, però io sono in Regione Lombardia, per cui un po' distante da noi, faremo quello che dobbiamo fare. Ma cosa va di più adesso, in questo autunno inverno? La lotta di governo o la lotta... la Lega di governo, la Lega di lotta? Cioè, stasera bisogna scaldarli o... Ma è naturale, ma una, guardi, che la lotta di governo e la lotta e la Lega di governo e la Lega di lotto sono la stessa cosa. Beh, siete tornati, ma, insomma, se fosse... il tema della secessione torna, Ma questo torna. Non è mai stato distante. A parole torna, poi lei lo a sa parole benissimo. Torna prepotentemente. Io sono stato dal Presidente della Repubblica, c'erano i miei colleghi, 22 colleghi, insomma, perché ci sono anche le due province autonome, essendo io il Presidente nazionale dei consigli regionali, dico che c'è una grande difficoltà a mettere d'accordo le esigenze e i tagli della Lombardia con le esigenze e i tagli della Calabria. Cosa vuol dire? Boni, secondo lei la separazione dell'Italia è inevitabile? Se va avanti così, sì. No, se va avanti così. Se va avanti così. Ma anche perché Bossi ha detto che... poi qualcuno si stanca, qui. Non è che si può chiedere all'infinito a tutti, soprattutto alla gente al nord, di pagare. Il punto qual è? Che in un sistema dove i tagli sono lineari tu non riuscirai mai a premiare gli enti virtuosi, per cui i sindaci nostri sono in grande difficoltà. Senta una cosa, ma domenica Bossi staccherà la spina, vedrai. Ma no, ma la Padania, perché oggi, se non sbaglio, Bossi ha detto che l'Italia va a rotoli, ma la Padania comunque si salverà perché il nord ha le spalle forti. Lei conferma che la Regione Lombardia produce da sola il 21% del prodotto interno lordo. Ho capito, ma la separazione non è una cosa possibile, lei lo sa benissimo, ci vuole un atto traumatico, un atto traumatico. Lei è pronta a un atto traumatico? Ma io non è che io non ho bisogno di atti traumatici tutto il resto, a me il cuore batte in Lombardia, batte in Padania, il segnale che sta venendo avanti è chi si cambia, o si cambia o molto probabilmente non sarà neanche più un problema della Lega Nord con la secessione, sono problemi di qualcun altro. Senta, cioè, no, problemi del sud, lei dice. Ma no, ma ascolti, sono io non ne do una colpa alle popolazioni del sud. Credo che il sistema che si è innescato, il sistema assistenzialista, soprattutto prodotto dalla classe dirigente, da una gran parte della classe dirigente del sud, tiene schiava una gran parte di quella popolazione. Certo che oggi non possiamo più permetterci 23.000 dipendenti in Sicilia contro i 3.000 della Lombardia. Io ero in Sicilia in vacanza, Pozzallo, che è un bellissimo paese di 15.000 abitanti, ha 550 dipendenti. Un comune simile in Lombardia, sempre di 15.000 abitanti, arriva intorno ai 100 dipendenti. Che dicevi, Pierluigi? No, no, dicevo che questa settimana, però insomma, vabbè, ma è un esempio di calcio, insomma, questa settimana il sud si è distinto, ma no, era un tema, un tema possibile, perché beh, io vengo da Manchester, il Napoli è andato, visto, il Napoli è andato forte, ho visto 3.000 tifosi civili, dell'Inter, anche del Milan. No, no, ma insomma è giocato contro il Barcellona. Sì, questo non è più il Napoli di Maradona che aveva l'uomo forte, il genio, questa è una squadra, un progetto imprenditoriale che sta nascendo. Le piace De Laurentiis? Guardi, a me piace De Laurentiis, piace la squadra del Napoli perché ha voglia di giocare, ma a me piace quel tipo di mentalità, ma non dico che è la nostra, è la mentalità giusta per cambiare le cose. Certo che bisogna accelerare questo, perché sennò il paese salta in aria davvero. Guardi che io non scherzo quando dico che ho difficoltà a convincere alcuni colleghi che è finito questo film, che la ricreazione, come ha detto qualcuno, è finita. Tanto c'è un'intercettazione che escono, che esce qualsiasi cosa, caro Boni. Ieri sera avevo la fila fuori dalla porta della Camera, erano in 11, io me ne sono fatte solo 8 perché non potevo fare di più. Non si può arrivare a tutto. E quanto chi sarebbe questo? Berlusconi. No, Cifredi. Berlusconi a Tarantini. Berlusconi a ma lei non ci crede? Ma adesso io, con tutto il rispetto che posso avere per il Presidente del Consiglio, che è stato il Presidente della mia squadra di calcio, adesso, io non lo so, vediamo, ecco, se ha queste potenzialità non è uno scherzo. Lei ha mai fatto 8? No, 8 no. Al di là credo di qualche umana possibilità, A lei dice? Lei dice? Ma non lo so. Parenzo lì in Grecia. Dipende anche dagli aiutini, Ascolti, io ho ancora, non ho bisogno degli aiutini. Non ho quei bisogni, non ne sento bisogno. Vabbè, dobbiamo chiudere. Grazie a Pierluigi Pardo di esserci venuto a trovare. Grazie, ci vediamo presto. Ciao Parenzo. Ciao Calisto. Ci vediamo sul pullman. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie Boni. Salve, grazie. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Cruciale vaffanculo, stronzo e cruciale. Radio 24. La passione si sente.